Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Eccoci ancora qui dopo il nostro bar in onda. Vi siete svegliati solo ora? E va bene lo stesso, sono le 7:20 minuti, siamo qui con il nostro alpino Peter Bescapè, sempre in regia, e pronti alla lettura dei giornali. Vi ricordo che oggi avremo ospite Matteo Renzi, alle 8:30 sarà con noi, tornerà con noi il sindaco di Firenze per gli ultimi giorni di campagna in vista del ballottaggio. Ricordo sempre che è aperto l'invito anche al segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, che abbiamo invitato più volte, ma non abbiamo al momento ottenuto risposta positiva. Confidiamo, mancano ancora 2 giorni, giovedì e venerdì. Per quel che riguarda poi le 8:15 andremo in Veneto, dove c'è un referendum, si chiede un referendum da parte di qualcuno, e il Consiglio regionale oggi si dovrà esprimere per un referendum per l'indipendenza del Veneto. Una cosa un po' passata sotto traccia, ma seria, insomma, basta sentire le argomentazioni del referendum richiesto da alcuni consiglieri regionali. E oggi il Consiglio regionale del Veneto si dovrà esprimere su questo. Allora andiamo prima con ordine i giornali in edicola. In questo mercoledì 28 novembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla delega fiscale, il Senato dà forfè. Mentre il caso Sanità è un po' l'apertura di vari giornali. Monti apre il caso Sanità, così sul Corriere della Sera. Per Repubblica, Monti, sanità pubblica a rischio. La Stampa, servizio sanitario a rischio. Il Messaggero, sanità allarme di Monti. Pubblico la mette così, rigor mortis. Utilizza il modo con cui lo chiama Beppe Grillo, Kim Jong Grill. E poi l'Ilva, l'ultima salvezza per l'Ilva, è il titolo del Secolo XIX, mentre il Fatto Quotidiano, decreto sul disastro Ilva, Bersani tiene i soldi di Riva. Gli operai difendono l'Ilva, questo è il titolo invece dell'Unità. Il Manifesto, Bellacciaio, non è Bella Ciao, ma Bellacciaio, ovviamente sull'Ilva. Il Giornale invece sul caso Sallusti, che ridere, botte tra i PM. E infine Libero, altre tasse in arrivo. Avvenire anche sull'Ilva, Ilva corsa contro il tempo, Napolitano al Premier, decreto per evitare effetti irreversibili. Insomma, avete visto, Ilva, sanità sono i due temi più gettonati. Io voglio, visto che ho citato Bellacciaio e non Bella Ciao, invece c'è anche una notizia che riguarda Bella Ciao e riguarda una preside a Milano che oggi si guadagna mezza pagina di racconto sul Corriere della Sera, raccontata da Federica Cavadini a pagina 25 del Corriere. È la storia della preside anti-occupazione che canta Bella Ciao. Ha respinto il blitz degli studenti al grido «Sono fascisti». Succede alla scuola Leonardo da Vinci di Milano, un quotato liceo scientifico del centro, davanti a Palazzo di Giustizia. Li ho chiamati fascisti, sì, e violenti, e squadristi, e figli di papà. Cantavo Bella Ciao, ho trovato l'invasor. Mentre loro cercavano di sfondare per occupare la scuola. Sono stata anche malmenata, io che sono una donna, pure vecchia, ma da qui non mi muovo, difendo la mia scuola anche a costo della vita. Sono al servizio dello Stato. Parole della preside Maria Concetta Guerrera, preside appunto allo scientifico Leonardo da Vinci di Milano, che definisce l'invasore gli studenti dei collettivi decisi a occupare, come in molte altre scuole da Roma in avanti. E qui si sono presentati lunedì pomeriggio gli studenti, respinti da dirigenti e bidelli, costretti al dietrofront della Digos, e ci hanno riprovato ieri, e lei, la preside, si è messa di traverso, proprio così, dicendo: mentre cantavo Bella Ciao, li ho respinti ed sono pronta a passarci le notti nel mio liceo. Nessuno entrerà qui a fare danni, ha detto la preside, a devastare laboratori che sono preziosi e che poche scuole pubbliche hanno. I ragazzi non hanno motivo di occupare, hanno chiesto l'assemblea, io l'ho autorizzata. Hanno chiesto spazi autogestiti e io li ho autorizzati. Nessuna delle loro iniziative è stata negata o compressa. I professori sono tutti disponibili, sono persone dall'alto sentire e la mia porta è sempre aperta, sono per il dialogo e il confronto. Loro invece, lo ribadisce, sono fascisti e violenti. Ed eccolo qui, descrivo la scena di lunedì: da una parte i bidelli, gli agenti a difendere la scuola, dall'altra i ragazzi pronti a sfondare, a entrare con la forza. Chi erano i proletari? Chi si è fatto male alla fine? Cita gli scritti corsari di Pierpaolo Pasolini, questa dirigente che è professoressa di storia e filosofia. Un bidello del Leonardo si è fatto male, ma non denuncia né lui né la preside, che dice sono stata malmenata. Ieri sono arrivate le scuse degli studenti, che lei definisce anche figli di papà e eteroguidati. Beh, non sono le accuse più gravi, visto che li ha definiti anche fascisti e violenti, ma insomma è una storia che fa molto pensare anche per quel che riguarda quello che sta succedendo nel mondo della scuola. Con tante occupazioni e questo racconto di una dirigente che è letteralmente barricata nel liceo Leonardo da Vinci e che è definita dal Corriere la preside anti-occupazione. Dice: ho dato tutto quello che mi chiedevano, ma occupare per poi devastare, questo assolutamente no. Non è male come posizione, magari la chiamiamo anche se questa vicenda rimane una vicenda ancora viva, nel senso se continua questa sua resistenza al canto di Bella Ciao. E poi lo abbiamo detto anche durante l'inizio di trasmissione al Bar in Onda alle 6.30, ormai è ufficiale, il Papa Benedetto XVI sbarca su Twitter, in realtà c'è già su Twitter, ma dal 3 dicembre, quindi da lunedì, pare che ci sarà un cinguettio quotidiano del Santo Padre. Anche il Papa su Twitter il 3 dicembre è il primo cinguettio, scrive il Messaggero a pagina 14. In realtà il primo c'è stato quando c'è stata la nascita dell'account di Twitter di Papa Ratzinger, di Papa Benedetto XVI, ma da allora non c'è stato più alcun cinguettio. E allora la formula studiata per i tweet papali è grosso modo quella sperimentata con grande successo dal Cardinal Ravasi, uno che è un veterano definito di Twitter sul Messaggero. Il Papa individuerà personalmente una frase delle Sacre Scritture, dai suoi libri, dalla sua vasta produzione di omelie e catechesi, e poi un collaboratore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali dovrà adattare tutto questo alle regole dei 140 caratteri. Anche il Santo Padre non può sfuggire alla regola inesorabile del 140 caratteri massimo per ogni tweet. Chiederà una dispensa? Non la otterrà, credo, e quindi anche lui dovrà essere compresso nei suoi pensieri quotidiani in questo limite. Prima della pubblicità vi voglio regalare solo ciò che dicono di noi dalla Gran Bretagna, dalla BBC, dove Lord Patton, che è il presidente del trust che governa la BBC, sul secolo XIX, peccato che non c'è più con noi Paola Saluzzi, che era con noi alle 6.30, mi è sfuggita, se no gli avrei chiesto. Lord Patton, presidente del Trust BBC, dice: ah, voi criticate la TV, la BBC? Dovreste guardare la TV italiana, che spazzatura. Evviva, è sempre bello essere riconosciuti all'estero dal giudizio di un tale Lord Patton. Non lo so che autorevolezza possa avere, ma insomma il presidente del trust che governa la TV pubblica britannica, la BBC, ha detto: chiunque ci tratti come spazzatura dovrebbe essere obbligato a guardare la TV italiana. Come dire, poi ne parliamo. 24 mattino. E allora eccoci qua a parlare ancora di quello che c'è sulle prime pagine del giornale, e torniamo sul tema sanità. Molti quotidiani aprono su questo perché ieri Mario Monti ha toccato così il funzionamento e la sostenibilità futura del sistema sanitario nazionale, un tema molto molto caldo. Che cosa ha detto Mario Monti? Ha detto che la crisi che ha colpito tutti ha colpito anche il campo medico. E ha detto questa frase: le proiezioni di crescita economica, quelle di invecchiamento della popolazione mostrano che la sostenibilità futura dei sistemi sanitari, incluso il nostro servizio nazionale di cui andiamo fieri, potrebbe non essere garantita se non si individueranno nuove modalità di finanziamento e di organizzazione dei servizi e delle prestazioni. Che vuol dire, cari ascoltatori? Cioè il sistema sanitario nazionale così com'è non reggerà se non si trovano nuove modalità di finanziamento. Bisogna essere brutali. Poi Monti ha smussato un po' dicendo non è da intaccare, non è a rischio la gratuità del servizio sanitario pubblico. Tasse? Vuol dire questo? Ci vogliono nuove tasse, nuove forme di finanziamento? Il nostro alpino Peter Bescapè fa: beh, ovvio che non l'avevi capito, solo, come dire, solo tu non l'avevi capito che sta dicendo che ci vorranno nuove tasse. Non lo so, no, in realtà non ha detto così, il sistema è ben più complesso. Mario Monti ha messo un dito sicuramente nella piaga, come raccontano per esempio sul Corriere della Sera o sulla Stampa, due articoli interessanti che vi segnalo. Questo sul Corriere della Sera, pagina 2-3, racconta di uno studio, di una ricerca Cergas dell'Università Bocconi. I timori del premier Monti sulla tenuta del sistema sanitario si innestano su una situazione di crisi ben conosciuta dai cittadini. Solo nell'ultimo anno gli italiani per curarsi hanno speso 36 miliardi di euro di tasca propria per visite mediche e esami che il servizio sanitario non era in grado di offrire in tempi e modi utili. E questo dato contenuto appunto nel centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale, appunto il CERGAS dell'Università Bocconi. Il sistema sanitario italiano riesce infatti a offrire cure gratuite ai cittadini per il 75% della richiesta di salute. In Europa la media arriva all'85%. Il resto viene pagato, quindi il 25% delle prestazioni sanitarie, out of pocket, alla lettera, prendendo i soldi dalla tasca. Cioè i cittadini prendono e tirano fuori. Perché? Perché il sistema sanitario non è in grado di garantire. Perché magari privatamente, no, si fanno le classiche telefonate, privatamente si ha un esame in 3 giorni e dal punto di vista pubblico bisogna aspettare 7 mesi. E allora tutto questo non regge, racconta anche la Stampa in un altro articolo interessante che trovate a firma Francesco Spini a pagina 3. Polizze private, cliniche low cost, queste le strade alternative, la sfida è aperta, trovare un'altra gamba di sostegno al traballante sistema sanitario pubblico. Gli italiani con le loro tasche appunto fanno già la stampella, il 25% della spesa sanitaria è pagata privatamente, come abbiamo appena detto, rispetto a un totale pari al 9,1% del PIL, la spesa privata vale l'1,67% del PIL, appunto, come detto, oltre 30 miliardi pagati di tasca dagli italiani. Il 55% delle visite ambulatoriali è pagato privatamente, soprattutto a causa delle infinite liste d'attese, ma meno del 10% è coperta da polizze assicurative. Ecco, sono loro i grandi assenti, racconta la Stampa, rispetto ad altre esperienze estere: le assicurazioni. Questo così dice per esempio il direttore generale dell'ANIA Dario Focarelli. L'associazione che riunisce le compagnie assicurative sono spesso associate ai contratti collettivi di lavoro di alcune categorie. Ecco, l'idea è quella forse di aprire alle assicurazioni. C'è un'intervista a Ignazio Marino del Partito Democratico sul Messaggero, la trovate a pagina 6. Lui, essendo un chirurgo, si occupa spesso di sanità, dice: è giusto l'allarme dato da Monti, perché delle parole di Monti apprezzo l'allarme sulla sostenibilità del servizio sanitario, ma non ci sto a distruggere questo strumento prezioso. Cosa dice Marino? Un po' quello che dicevamo noi anche alle 6:30. Prima si taglino gli sprechi, servono nuovi tagli ma non lineari, come dopo il governo Berlusconi sta facendo Monti. Occorre una forte razionalizzazione, l'eliminazione degli sprechi, non interventi a casaccio. Effettivamente, dice Marino, per esempio a Roma ci sono 5 trapianti, centri di trapianto del fegato, fanno 98 interventi l'anno, a Torino l'unico centro ne fa 137, quindi una razionalizzazione abbasserebbe i costi. sono significative sui ricoveri, per esempio, dei piccoli interventi chirurgici. Nelle regioni migliori i pazienti vengono ricoverati una sola notte, nel Lazio la media di 2,3 notti, in alcune aree della Calabria siamo a 7 notti. Dunque sia tagli, ma solo per chi spreca. Ecco, temo, aggiungo io, che gli italiani, come al solito, non è che sono contrari alle nuove tasse perché sono pieni di tasse fin qui, già intanto, ma anche perché poi vedono queste cose, quando ci sono degli sprechi totali, delle sperequazioni, degli sprechi evidenti, allora prima forse noi italiani, che non siamo stupidi, siamo pronti a dire: Stato, fai tutto quello che è per mettere a puntino il sistema, e poi magari se vediamo che davvero il sistema sanitario nazionale non regge, parliamone, prima però fateci vedere che avete fatto i compiti a casa, come direbbe Angela Merkel, i compiti a casa, ecco. Iena, oggi, sulla stampa, dedica proprio a questo tema il suo graffio. Miti, sfatato il mito del governo di salute pubblica. Il Manifesto attacca così: Monti prende la mira e colpisce la sanità. In tutto questo, ieri è stata una giornata nella quale, per la verità, è un periodo nel quale c'è un ingorgo al Senato, alla Camera, per le leggi da approvare, perché i decreti vanno convertiti, ci sono delle scadenze, e questo ingorgo provoca che o si lavora 24 ore su 24, o si lavora anche il weekend in Parlamento, oppure delle cose salteranno. Per esempio, qualcuno ha fatto la scommessa che entro il 5 gennaio 2013 deve essere convertito il decreto per il riordino delle province. Segnatevi la data, è 5 gennaio 2013, poi il 6 ci racconteremo se è arrivata la Befana oppure no. Ieri intanto è saltata una cosa di poco conto, la delega fiscale. D'altronde la si attende da quanto? Da 20 anni più o meno? Delega fiscale verso il binario morto, racconta Il Sole 24 Ore con Marco Mobili. Lo stop dell'aula del Senato. Il disegno di legge torna in commissione e, per ammissione di tutti, verrà trattata a babbo morto. La delega fiscale, quella che, come racconta anche il Corriere della Sera, doveva rivedere cose, ripeto, quisquiglie, la revisione del catasto, per esempio, la riforma del catasto che dovrà aggiornare i valori degli immobili a quelli reali, il contrasto di interessi con la possibilità di detrarre dalla denuncia dei redditi gli scontrini, la revisione delle agevolazioni fiscali, il tutoraggio per le imprese, l'esclusione della nuova IRI per i professionisti, il nuovo statuto dei contribuenti, la semplificazione per imprese e cittadini, quisquiglie per l'appunto, che si attendono ormai da decenni. Tutto questo è in binario morto. E perché? Beh, lo raccontano bene i giornali. C'è l'impasse dei partiti politici. Il PDL, come ha detto il sottosegretario all'economia Vieri Ceriani in questa frase che viene data dal Corriere della Sera, purtroppo nel PDL non si sa più chi rappresenti il partito. E ancora, sentite l'ironia del sottosegretario Ceriani: oggi in Parlamento si sarebbe potuta affrontare anche la riforma dell'apicoltura nomade, che l'esito sarebbe stato lo stesso, un rinvio e un affossamento. Come dire, i partiti si sono messi di traverso, il Popolo della Libertà con un muro insormontabile, a scrivere Marco Mobili sul Sole 24 Ore, per la necessità di procedere ad accertamenti tecnici in materie particolarmente delicate e complesse come la riforma del catasto. Infatti sono talmente complesse che da 20 anni che si studiano e vanno fatti approfondimenti e non si fanno. E il PD invece, scrive il Corriere della Sera, si attende il ballottaggio. Si capirà chi ci sarà, Renzi e Bersani, e allora in tutto questo la delega fiscale viene presa e diventa in pratica carta straccia. Anche Repubblica racconta di questo ingorgo, il caos nel PDL blocca le Camere. Repubblica la mette così, diciamo, come dire, tutta colpa del Popolo della Libertà. Stoppa fisco, stoppa le province. Eccolo qui, già si portano avanti al 5 gennaio dicendo che le province verranno bloccate, il riordino delle province, nell'articolo di Francesco Bei che trovate a pagina 12. Ira del governo, secondo Repubblica, addirittura ci sarebbe l'ordine di Berlusconi: non votate più niente. La Repubblica dice addirittura Berlusconi avrebbe dato questo ordine, cioè creiamo un caos istituzionale, non facciamo passare più nessun provvedimento al Parlamento. In tutto questo l'OCSE ha rivisto al ribasso le stime per il 2013. Marco Mussanè sul Sole 24 Ore, pagina 8, l'OCSE rivede al ribasso le previsioni sull'andamento economico dell'Italia. Nel tradizionale outlook d'autunno l'organizzazione parigina prevede per l'Italia un calo del PIL del 2,2% quest'anno, mentre era dell'1,7% in maggio la previsione, e dell'1% l'anno prossimo, era dello 0,4%. Dunque revisioni al ribasso delle previsioni economiche. Titolo: rischio di una nuova manovra nel 2014. Il ministro Grilli subito ha replicato: non ci sarà una nuova manovra, ve la traduco io, stanno parlando di tasse. Ci vorranno nuove tasse? E allora eccoci qua, il caso Ilva tiene banco ancora sui giornali ovviamente. Come si svilupperà la situazione? Domani c'è l'incontro tra Palazzo Chigi e le parti sociali, si va verso un decreto per produrre subito, così raccontano Lina Palmerini e Marta Paris sul Sole a pagina 6, un decreto legge che dovrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri di venerdì per far ripartire gli impianti dell'Ilva, evitare dunque l'emergenza sociale che vale migliaia di posti di lavoro. Tra l'altro oggi Il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, viene intervistato da Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera. L'intervista la trovate a pagina 8. Dice: cosa è accaduto lunedì? Abbiamo sospeso la produzione perché ci è stata sequestrata la merce. Solo per motivi di sicurezza abbiamo sospeso i badge. È stato comunicato a tutti che erano in ferie. Ma c'è chi sospetta che sia stata strumentalizzata la paura per premere sul governo. È falso, risponde Ferrante. Abbiamo preso quella decisione con grande amarezza. I lavoratori stiano tranquilli, non perderanno nessuna giornata lavorativa. Non è stata avviata nessuna procedura di mobilità né di cassa integrazione. Domani presenteremo un ricorso al riesame contro il sequestro della merce. Se verrà accolto, potranno tornare tutti al lavoro. Se venisse respinto questo, ricorreremo in Cassazione, ma speriamo che al tavolo del governo Monti si trovi una soluzione. Poi continua l'intervista, respinge l'idea che sia stata una rappresaglia questa della chiusura, assolutamente no. E poi all'ultima domanda riguardo Fabio Riva, cioè il vicepresidente di Riva Fire Irreperibile, vi crea problemi? Dice: quella è un'altra inchiesta, risponde Ferrante. È solo un caso che i due provvedimenti siano arrivati lo stesso giorno. A me riguarda poco, mi interessa il futuro dell'azienda. Ecco, viene dato per latitante, comunque a Miami in America. Fabio Riva è ancora irreperibile. Ieri la procura lo cerca da un paio di giorni perché è stato raggiunto da una richiesta di arresto e però viene dato appunto per come ultime tracce in fuga a Miami, raccontano Carlo Bonini e Giuliano Foschini su Repubblica pagina 4. La procura è anche a caccia del tesoro nascosto all'estero, questo secondo Repubblica, mentre Nicky Vendola, governatore della Puglia, sempre su Repubblica, intervistato da Lello Parise, si difende: non ci sono mai state pressioni dal sottoscritto. Anche lo stesso presidente, anzi direttore generale dell'ARPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale, Giorgio Assennato, dice: nessuno mi ha mai fatto pressioni, tantomeno da parte del governatore, tanto che sono ancora al mio posto. Mentre Vendola dice: sì, io parlavo con il responsabile relazioni istituzionali dell'Ilva, Archinà. Non posso parlare con il responsabile delle relazioni istituzionali della più grande industria d'Italia che si trova nella mia regione. E quindi dice: non ho mai girato la testa dall'altra parte, non ho mai fatto nessun tipo di pressioni. E ci sono le accuse invece nei confronti di Bersani. Il Fatto Quotidiano e anche Il Giornale gli chiedono conto di questi 98.000 euro che la famiglia Riva diede nel 2006, tutto in maniera regolare per la competizione elettorale di allora, a Bersani. E alla domanda Paola Zanca del Fatto Quotidiano a Bersani dice: basta, È un Bersani che si innervosisce, una storia che lo rende nervoso. Dal suo staff fanno sapere che non ha senso chiedere conto di soldi del passato quando ancora non si immaginava la bomba tarantina. Erano soldi del 2006 per l'appunto. E dice sì, sì, è giusto non ridare quei soldi, è giusto tenere i soldi di un imprenditore che allora mi ha dato i soldi, anche se poi si è scoperto che non rispettava le regole. Insomma, Bersani dice: cosa c'entra, sono soldi del passato, sono 96.000 euro dati nel 2006, tutto regolare. A proposito di Bersani e Renzi, noi avremo Matteo Renzi alle 8.30 e lo scontro finale è sulle regole. Stasera saranno anche in TV, il faccia a faccia in TV. Pare che il fair play verrà accantonato definitivamente, così racconta almeno in un retroscena Federico Geremicca sulla Stampa. Nel faccia a faccia in TV si annuncia l'addio al fair play. Ieri pare che Renzi abbia anche mandato un SMS a Bersani. Con risposta secca di Bersani: non trasformiamo tutto in un porto di mare. E poi Bersani che dice: le regole a 3 giorni dal ballottaggio non cambiano, non cambiano, perché le regole sono state sottoscritte da tutti. Non è fantapolitica, è tutto vero, ma l'onorevole Scilipoti, in un memorabile articolo di Fabrizio Roncone sul Corriere a pagina 12, sta tenendo gratuitamente in un oratorio a Roma lezioni di buona politica, lezioni di buona politica dall'onorevole Scilipoti a Scuola di Politica da Scilipoti. Insegno come si tratta e racconta e segue questa lezione. Sto andando a fare lezione. Ma come lezione? Sì, lo seguiamo, va in un oratorio, ci sono tanti giovani. Prima c'è la preghiera, sempre sia lodato col sacerdote, e poi insegno ai giovani come si fa politica. E c'è questo racconto, spiegherò ai ragazzi come ci si muove in certi ambiti, il genere di rapporti che bisogna tenere, insomma, dalla scuola dei partiti politici storici alla scuola dell'onorevole Scilipoti. Anche questo può essere in qualche modo un passaggio della politica attuale. Chiudo per dire che c'è scontro in procura sulla decisione di dare i domiciliari ad Alessandro Sallusti, direttore del giornale, deve scontare 14 mesi di carcere. Scontro in procura sull'arresto di Sallusti, racconta Repubblica, racconta anche il giornale in prima pagina. Lo scontro è perché soprattutto il procuratore aggiunto Nunzia Gatto, responsabile delle esecuzioni pena, invocando il principio dell'uguaglianza di tutti gli imputati davanti alla legge, non si è trovata d'accordo a dare alla concessione dei domiciliari. Per la verità lo stesso Sallusti ci dice: è vero, è un privilegio che il procuratore capo Bruti Liberati mi ha voluto concedere perché si vergogna di mandarmi in carcere, ma io certo non ho più diritto, e ci sono in carcere persone che hanno molto più diritto di me di avere i domiciliari. Come finirà? Entro 5 giorni andrà ai domiciliari, andrà in carcere, lo scopriremo solo vivendo. Il giornale radio.